adesso guarda lo suo profano prego si di cuore e il piano di sangue rosse tali di sangue rosse tali di sangue rosse Thank you.